Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre il venerdì, è il momento, ahimè, della nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi di questo paese. Ci occupiamo come sempre solo di denaro pubblico e quindi solo dei costi che devono sostenere i contribuenti. Poi, come sempre, la borsa, meno 2% in questo momento Milano, perde l'1,20 Parigi, l'1,20 è la flessione anche di Francoforte. L'1%, meglio quasi l'1%, adesso un po' di meno, lo 0,80 lo perde Londra. L'America invece è sostanzialmente invariata col Dow Jones a meno 0,11%, euro a quota 1,11 sul dollaro. Come mai un calo così forte a Milano rispetto a altre borse? Beh, soprattutto i bancari, ma soprattutto il Monte dei Paschi. Il titolo del Monte dei Paschi sui diritti perde il 9,70%, sugli ordinari invece il 3,26%. Male anche Mediaset, meno 4,70%, Fiat Chrysler meno 3,80%, Mediolanum meno 3,50%, Mediobanca meno 3,30%, come UbiBanca e Finmeccanica meno 3,30%, Azimut meno 3%, come la Pop Milano e Autogrill, Intesa San Paolo meno 2,70%, come Ferragamo e Iux. Poi ci collegheremo con la nostra postazione a Santa Margherita Ligure, dove è in corso la prima, in realtà è finita questa mattina, nella tardissima mattinata, diciamo era già ora di pranzo, la prima giornata di lavori dei giovani di Confindustria, come ogni anno a Santa Margherita. L'atteso, anche perché insolito, era un po' di tempo che la politica non si affacciava all'Assemblea dei Giovani Industriali. Intervento di questa mattina del leader della Lega Salvini, altri temi toccati, c'era anche il ministro della giustizia Orlando che chiaramente ha parlato anche della nuova vicenda, della nuova fase dello scandalo Roma Capitale, dell'inchiesta Roma Capitale, e poi cercheremo di capire che cosa si aspettino i giovani anche dal governo. C'è stata una frase del loro presidente Marco Gai che ha detto a Renzi: utilizzateci, spremeteci anche per le idee, non solo con le tasse. Sarà nostro ospite nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente adesso le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dai temi internazionali. L'OPEC ha mantenuto, come ampiamente atteso, invariato la produzione di petrolio a 30 milioni di barili al giorno. Il prezzo del petrolio è leggermente in rialzo, viaggia vicino ai $58 al barile, ma appunto poco mosso rispetto alle attese, anche perché, ripeto, in questo momento non vi è nessuna ipotesi che il braccio di ferro tra Arabia Saudita e Stati Uniti possa smettere, quindi che i paesi OPEC tornino a tagliare la produzione di petrolio. Dagli Stati Uniti invece arriva la notizia che la disoccupazione è salita leggermente nel mese di maggio al 5,5%, negli Stati Uniti sono stati creati comunque 280.000 posti di lavoro, un dato superiore all'attesa degli analisti. La Grecia, il tormentone greco. Ora faccio notare, oggi presente su Sole 24 Ore, che anche il Fondo Monetario Internazionale, che non è certo la patria dei keynesiani, dei teorici dell'intervento dello Stato, dei teorici degli investimenti quando un paese è in recessione, degli investimenti pubblici, anzi il Fondo Monetario spesso è stato criticato dall'Argentina in poi per aver imposto delle clausole di rientro dei prestiti che diventavano un cappio. Quindi stiamo parlando del Fondo Monetario Internazionale. allora la patria delle volte, alcuni l'hanno definita la patria dell'ortodossia monetarista. Ebbene, perfino il Fondo Monetario Internazionale critica questa, diciamo, ancorarsi, questo impiccarsi continuo dell'area euro al limite del 3% nel rapporto deficit-PIL. Dice il Fondo Monetario Internazionale, è un valore troppo rigido nell'attuale situazione economica. Ecco perché il patto di stabilità, come disse Prodi, è stupido, perché non tiene conto del, adesso c'è un piccolo aggiustamento, ma solo per i paesi virtuosi, non tiene conto del ciclo economico. Voglio dire, avere un deficit sotto il 3% quando il tuo PIL cresce, siccome il rapporto è deficit-PIL, è un obiettivo buono e giusto. Mantenerlo a tutti i costi così, quando un PIL non cresce o addirittura è negativo, diventa poi la famosa austerità che porta altra recessione. È un valore troppo rigido, dice il Fondo Monetario Internazionale, andrebbe corretto in una situazione di crescita nominale leggermente superiore al 5%, cioè sarebbe corretto se tu avessi una crescita nominale del PIL del 5%, mentre attualmente la media dell'area euro non va oltre il 3%, quindi bisognerebbe avere un valore un po' più lasco, un po' più ampio, invece che un deficit solo al 3%. Nel frattempo, come avete letto oggi sui giornali, la Grecia, noi l'avevamo anticipato due giorni fa, ha scelto l'opzione che era a sua disposizione di pagare il fondo monetario in un'unica rata a fine giugno, il 30 giugno. Tra l'altro il totale delle rate però a questo punto diventa di 1 miliardo e 600 milioni, quelle che scadono a fine giugno. Secondo il Fondo Monetario e anche secondo la Commissione Europea, il rinvio non mette in dubbio la capacità di onorare l'impegno. Infatti questa è una regola prevista dal Fondo, cioè puoi pagare le rate singolarmente o tutte in un'unica volta. Ancora oggi il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, ha detto che la cancelliera lavora benissimo con il suo ministro delle finanze, soprattutto sul tema della Grecia, con il mitico Falco Schäuble. Questo perché oggettivamente erano girate parecchie voci di dissidi tra la posizione della Merkel, più conciliante, più politica, più attenta, se vogliamo, alla ricaduta politica di un'eventuale uscita della Grecia e fallimento della Grecia, rispetto a quella di Schäuble, che invece è una specie di trattore su questo, non ne vuol sentir parlare. Anche Schäuble dice non ci sono divergenze con la cancelliera. Bene, siamo contenti per loro. Andiamo avanti. Invece il governatore della Banca Centrale della Grecia, l'ex ministro tra l'altro dalle finanze Yannis Stournaras, ha espresso un disaccordo netto invece sulla decisione di rinviare il rimborso al Fondo Monetario. Aveva chiesto al governo di evitare tale mossa perché danneggiava l'immagine del paese e poteva avere conseguenze spiacevoli. Stiamo mettendo la Grecia allo stesso livello dello Zambia, avrebbe detto, riferendosi allo Zambia, che negli anni 80 accumulò una cifra enorme di rimborsi da dare poi al Fondo Monetario Internazionale. Però noi già raccontammo quanto è costata l'austerità in Grecia. È verissimo che i greci prima non avevano rispettato i patti, avevano truccato i conti, vivevano di sopra le loro possibilità, ma abbiamo fatto una stima: se l'Italia avesse dovuto tagliare la sua spesa pubblica tanto quanto ha fatto la Grecia, avremmo tagliato la spesa pubblica di 280 miliardi. Uno dice magari, beh attenzione, piano, 280 miliardi vuol dire non garantire il welfare in questo paese, perché la spesa pubblica sono 800 miliardi, ma quella per i beni intermedi, quella degli acquisti, quella che critichiamo per le sue inefficienze, divergenze nei costi da una provincia all'altra, vale circa 150 miliardi. Quindi attenzione alle facili battute. Oggi uno studio sottolinea come nei primi 5 anni della crisi che ha colpito la Grecia, la famiglia media in Grecia ha perso 4 decimi, cioè il 40% del proprio reddito. Tra l'altro la maggior parte delle perdite registrate sono state sul reddito diretto, poi una parte, quindi cassa integrazione o salari più bassi, una parte dovuta a una maggiore imposizione fiscale e un altro 7% per l'inflazione non compensata da nessun aumento e scatto dei salari. Veniamo all'Italia. Il Ministero dell'Economia e Finanze segnala che migliorano le entrate fiscali nei primi 4 mesi, più 0,5%. L'IVA, il gettito IVA torna su un valore aggiunto positivo, più 0,6%, pari a più 180 milioni. E questo per quello che riguarda l'IVA. E tra l'altro, se si vede invece tutto l'insieme delle entrate tributarie rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sono 549 milioni in più, o appunto lo 0,5% in più. Questo quando nel giorno in cui ancora si commenta il dato dell'Agenzia delle Entrate, il dato in realtà è stato diffuso ieri, in cui l'Agenzia delle Entrate segnalava come nei primi tre mesi dell'anno le compravendite di abitazioni fossero scese del 3% rispetto ai primi tre mesi del 2014. È influenzato il dato però dall'agevolazione fiscale introdotta a gennaio 2014, quando furono formalizzati molti acquisti che si erano di fatto conclusi a fine 2013. Se si leva questo effetto, vi sarebbe in realtà nel mercato immobiliare un leggero aumento delle compravendite, poca cosa, dello 0,8%, e proprio su questo tema si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore. La firma di oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. L'economia italiana comincia a mostrare qualche segnale di miglioramento, si vedono progressi sul PIL, sugli investimenti, sulla produzione industriale. Tuttavia ci sono ambiti in cui i segnali di ottimismo appaiono ancora molto contraddittori. È il caso del mercato immobiliare, dove a fine del 2014 abbiamo avuto dati molto incoraggianti sul numero delle compravendite, dati che però ora vengono ridimensionati dalla rilevazione trimestrale fatta dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene, che dicono i numeri? Tra gennaio e marzo di quest'anno nel comparto residenziale si è registrata una riduzione del numero delle compravendite pari al 3% rispetto al 2014. È vero che all'inizio del 2014 erano entrate in vigore regole fiscali più convenienti sui rogiti, il che aveva determinato in quei mesi una concentrazione di atti di compravendita. Quindi ciò spiega in parte la riduzione del numero di compravendite nel 2015. Però l'Agenzia delle Entrate ha anche calcolato che, escludendo questo effetto, si sarebbe registrato solo un aumento dello 0,8%, che ovviamente è un dato migliore rispetto al meno 3%, ma non è affatto un buon dato se confrontato con gli ultimi mesi del 2014, che avevano invece visto una crescita molto sostenuta del numero di compravendite, così da far pensare che la crisi immobiliare fosse davvero alle spalle, cosa che invece ancora non è. La sensazione è che il 2015 sarà ancora un anno di transizione, l'anno che dovrebbe finalmente portare l'immobiliare fuori dalla crisi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Oh, ci siamo, ahimè. So che esistono anche gruppi di ascolto per questa classifica, gruppi di ascolto masochisti, chiaramente. Allora, partiamo, poi c'è come sempre anche l'imprenditore della settimana, la startup della settimana. In realtà è una vecchia, pur essendo una startup, sembra quasi un ossimoro, ma in realtà è una vecchia conoscenza della radio, perché ha avuto un'idea geniale e fu già intervistato appena ricevette il premio dal nostro Giovanni Minoli a Mix 24, ma lo riproponiamo volentieri perché è una storia emblematica e tra l'altro anche per monitorare come va la sua startup. Però partiamo con gli sprechi. Vi dico subito che oggi non c'è la Sicilia, per cui siamo contenti. In compenso abbiamo ben tre notizie su Venezia e sul Veneto, per cui non dite che poi siamo partigiani. Partiamo subito da Foggia. Allora, io al quinto posto, per carità, non è il primo posto, al primo posto abbiamo dovuto dare un ex aequo e capirete anche perché, però al quinto posto io capisco tutto, però guardate che gli sprechi della pubblica amministrazione si annidano anche tra le poche migliaia di euro. Perché lo dico? Perché il capo della polizia municipale di Foggia, Romeo Delle Noci, ha definito l'uniforme della polizia municipale il caposaldo fondamentale della legalità. Ok, è importante l'uniforme che sia il caposaldo fondamentale della legalità, insomma, anche come operano i vigili, tante altre cose. Comunque, per questa nobile e urgente motivazione, il comune decide di acquistare 188 paia di scarpe estive e fin qui tutto bene. Quello che non va bene è quanto ha pagato queste scarpe, perché queste scarpe estive costano quasi 24.000 euro in tutto. Abbiamo fatto i conti, sono 130 euro a paio. Dice, vabbè, magari è giusto, magari questo è il tipo di scarpa che usa il vigile a Foggia. No, attenzione, il comune di Siena, perché lo fanno tutti i comuni, cioè la divisa estiva giustamente, ha dovuto fare un bando praticamente analogo. 130 paia di scarpe estive per la Polizia Municipale di Siena, ha speso 5.000 euro invece che 5.500 tra l'altro. Allora, delle due l'una: o i vigili di Siena sono dei barboni e girano in infradito, perché hanno speso 38,7 euro e dubito che i vigili di Siena girino in infradito, anche se la Piazza del Campo non è il massimo per girare in infradito, o girano con le spadriglias, non lo so, o con delle cose che si scioglieranno con questo caldo sull'asfalto lasciando il vigile incollato, perché tra i 38 euro delle scarpe estive dei vigili del comune di Siena e i 130 euro di quelle di Foggia, insomma, c'è una differenza abissale. Adesso non so come siano fatte, non so se siano mocassini particolarmente fighi, fateci capire. Tra l'altro, una cosa interessante è che la spesa è già autorizzata per i vigili urbani di Foggia dai dirigenti degli uffici finanziari. Come saranno acquistate queste scarpe? Cioè, come avete fatto a scegliere un modello che costa 130 euro a paio? La spesa, c'è scritto, è stata calcolata, tra virgolette, in base ad una ricerca di mercato effettuata. Dove, come, quando, con che mezzi, non si sa. Una ricerca di mercato. Il mercato quale? Quello rionale, quello dietro l'angolo? Magari c'è un rapporto, non lo so, magari c'è un rapporto con chi produce queste scarpe, non lo so. Comunque, nell'atto si legge che il comandante delle noci ha delegato l'economo comunale a provvedere all'attivazione delle procedure necessarie all'approvvigionamento delle scarpe. La cosa interessante è che invece il comune di Siena ha spiegato come ha fatto a spendere così poco, ed è, guardate che questo è emblematico dello spreco della pubblica amministrazione, non le paia di scarpe, ma del fatto che se tu utilizzi centri di spesa accorpati o i centri di spesa già presenti, non ti fai i tuoi cavolo di bandi ogni volta, ci sarebbero dei risparmi quantificati da Cottarelli, se non ricordo male, in 8 miliardi l'anno. Allora, cosa ha fatto l'amministrazione di Siena così straordinario? Ha semplicemente utilizzato il sistema telematico degli acquisti della pubblica amministrazione della regione Toscana, in cui se tu accentri appunto i famosi centri appaltanti, sono 30.000 in questo paese, vorrebbero essere portati a 30, un po' pochi, basterebbero anche 3.000. E anche per quelle invernali ha speso 52 euro al paio. Io, se tanto mi dà tanto per quelle invernali a Foggia, visto che sono già arrivati a 4 volte quelle senesi, arriveranno a spendere 200 euro. Una comoda scarpa invernale. Inverno sappiamo essere inclemente e particolarmente duro nel foggiano. E va bene. Andiamo al quarto posto. Voi dite, ma così poco danno, 20.000 euro? No, no, ma attenzione, la dice lunga sulla giungla che regna perfino quando devi acquistare le scarpe estive per i vigili urbani. Al quarto posto abbiamo messo il mitico Galan, è solo la prima delle tre notizie che riguardano Venezia, ma Galan in questo caso non è tanto su Venezia, sul Mose. Lui ha già patteggiato 2 anni e 10 mesi di carcere e la confisca di 2.600.000 euro. Tra l'altro, la cosa interessante di Galan è che ha fatto ricorso in Cassazione contro il suo stesso patteggiamento, perché ha detto che era praticamente... è una possibilità che viene offerta, non è... c'è l'articolo 111 della Costituzione, ha fatto ricorso in Cassazione contro il suo stesso accordo con i giudici. Il problema è che quell'accordo Galan lo fece dopo che si era definito prostrato dal carcere. Tra l'altro lui ha trascorso il periodo di carcere in infermeria, e che ricorderete era anche caduto, ha deciso di patteggiare, non ce la faceva più a stare in carcere, nell'infermeria del carcere, ha patteggiato ed è tornato a casa. Come è arrivato a casa, ha fatto ricorso alla Cassazione. Vabbè, Galan, però, e dai, su. Detto ciò, lo scandalo del Mose in questo caso c'entra solo per la vicenda giudiziaria. Vi ricordo che è passato un anno esatto praticamente da quando è scoppiato lo scandalo del Mose, e faccio notare che le paratie mobili nella gestione Galan dovevano costare 2 miliardi di euro, ne sono costate 6 miliardi e 200 milioni per fare sto Mose, al di là della valutazione se fosse servirà o no, tanto ormai ce le teniamo le paratie in laguna, ma 6 miliardi e 200 milioni a prezzi correnti, cioè con al netto di inflazione significano il doppio di quanto è costato a questo paese fare l'autostrada del sole, la Milano-Roma, che a quel tempo fu un'opera di ingegneria incredibile. Ora, il doppio per fare le paratie in laguna. Vabbè. Galan, perché l'abbiamo messo al quarto posto? Però perché lui non solo fa ricorso alla Cassazione sul patteggiamento che lui stesso ha concordato con i giudici, ma resta ancora ancorato alla presidenza della Commissione Cultura, ora della Camera. Ora, io non so, ma cosa deve succedere perché Galan si dimetta dalla presidenza della Commissione Cultura? E anche perché ho capito che hai fatto ricorso in Cassazione, però avevi patteggiato, il patteggiamento è una missione di colpa, sei dentro uno scandalo enorme, se sei dovuto dimettere, ma dimettiti da solo, Galan, poi andrai a dimostrare la tua innocenza, ammesso, perché sai, è difficile un patteggiamento, no, comunque le vie della giustizia sono infinite, ma si dimette dalla presidenza della Commissione Cultura, ma proprio è un'immagine che non si può sentire, oltre alla responsabilità oggettiva per un'opera, e ne parleremo tra un po', perché lì c'è Mazzacurati che non ha i soldi per pagare, intanto vive negli Stati Uniti, ma dico un'opera che è stata un salasso per i cittadini, quindi quantomeno chi ha fatto il presidente della Regione Veneto per tanti anni ne è responsabile. Poi ci sono delle accuse gravissime di aver fatto parte ampiamente del sistema di corruzione messo in piedi da Mazzacurati, ma dimettiti della Commissione Cultura, poi vai a piangere, a protestare, a fare quello che devi, a dire che non ce la facevi più l'infermeria del carcere, a fare ricorso in Cassazione come torni a casa, ma almeno quell'atto di decenza, quell'atto. Poi non vi lamentate se vi insultano per strada quando non riuscite nemmeno a dimettervi dalla presidenza della Commissione Cultura della Camera, che dovrebbe essere una cosa seria per i cittadini italiani. Vabbè, andiamo al terzo posto, dove c'è una vicenda allucinante. Io ci ho messo, vi confesso che ci ho messo 10 minuti. Intanto un ringraziamento, però io ringrazio tutti i colleghi, tutti i giornalisti, tutti i giornali, a partire dalla mitica coppia di Gian Antonio Stella e Stefano Rizzo del Corriere della Sera, tutte le agenzie, perché spesso ci chiedete ma dove raccogliete questi dati? Li raccogliamo in giro, sono tutte cose o già uscite nelle agenzie di stampa o raccolte nei quotidiani locali, nelle cronache locali dei vari quotidiani o anche nelle cronache nazionali. Chiusa la parentesi. Allora, la vicenda del Regina Elena a Roma è talmente complicata che, ripeto, ci ho messo 10 minuti a capirla quando l'ho letta. Cerco di spiegarla nella maniera più semplice possibile. Il 1 febbraio del 2007 l'Università La Sapienza di Roma cede all'ospedale Umberto I i padiglioni che aveva in viale Regina Elena e che ospitarono l'omonimo ospedale dei tumori. Bisognava infatti accogliervi l'istituto di ematologia, dove il policlinico Umberto I pagava un affitto da 1,5 milioni di euro l'anno per spazi inadeguati e inospitali in via Benevento. Quindi cosa si decide? Di spostare lì l'ematologia, la Sapienza cede i padiglioni in via della Regina Elena, è tutto a posto, e noi come contribuenti risparmiamo 1,5 milioni di euro l'anno di affitto. Attenzione, un facente funzioni da direttore dell'Umberto I, che si era autonominato 3 giorni prima, il 20 dicembre del 2010 stila con l'allora rettore della Sapienza Luigi Frati, quello mitico, Frati, quello che piazzò a mezza famiglia la Sapienza, la moglie, il figlio, il genero, non mi ricordo, se volete vi do la lista del Frati. Quello che venne, diciamo, additato come il barone dei baroni, l'esempio di cosa può essere la baronia in una università italiana. Comunque stila con l'allora rettore della Sapienza Luigi Frati un verbale di riconsegna degli edifici 12.000 metri quadri nel centro di Roma in cambio di superfici equivalenti nel sistema direzionale orientale. Quindi che è successo praticamente? I padiglioni vengono ridati, nel frattempo a settembre del 2009 le famiglie vengono allontanate, quelle che avevano occupato l'ex Regina Elena vengono allontanate e finiscono di nuovo in strada. L'ex rettore Frati motiva l'operazione con l'esigenza di trasferire la clinica ematologica da via Benevento in via della Regina Elena, e va bene, plauso delle istituzioni, e dice perfetto, abbiamo risolto un problema, abbiamo trasferito. No, non è vero, hai cacciato le famiglie, ma l'ex Regina Elena è ancora inservibile, l'ematologia è ancora in via Benevento tra disagi e disservizi, i padiglioni sono stati restituiti alla Sapienza con un atto di dubbia legittimità, oscuro nelle motivazioni, con un marcato profilo di nullità. Il direttore generale dell'Umberto I, Domenico Alessio, manda un dossier al governatore Nicola Zingaretti, al rettore attuale Eugenio Gaudio, e dice è illegittima la restituzione all'università del complesso immobiliare ex Regina Elena e ne chiede la restituzione. Per farla breve, sapete cosa è successo? Che il Regina Elena è ancora vuoto, l'ematologia continua a pagare sotto sfratto un affitto da 1,5 milioni di euro l'anno, i locali sono assolutamente inservibili e adesso, tra l'altro, dopo essere stato sotto sfratto, paga un po' di più l'ematologia, paga 1,6 milioni euro e ci dovranno mettere anche dei soldi per rimettere a posto il famoso Regina Elena. Questo è quello che capita in questo paese quando tu cerchi, o meglio, tenti, apparentemente, di utilizzare delle strutture pubbliche dell'università a vantaggio di una struttura pubblica che si chiama Policlinico Umberto I, per far risparmiare al Policlinico Umberto I ogni anno 1,5 milioni di euro che forse a qualcosa al Policlinico Umberto I sarebbero anche serviti. Arriviamo al secondo posto e poi il primo posto, che appunto è un ex aequo, lo lascio dopo il meteo. Oh, parliamo di casinò o parliamo di casino? E la battuta è facile, però è innegabile. Se qualcuno si è recato recentemente a Lido di Venezia, recentemente vuol dire negli ultimi anni, nota che accanto al padiglione, al palazzo del cinema, c'è questa specie di cantiere aperto che è aperto da anni. Perché è aperto da anni? Intanto ci è già costato 4.000 euro al metro, 4.000 euro a testa, praticamente un metro quadro di una casa in centro storico a Venezia. Perché in questo buco di quasi un ettaro sarebbe dovuto sorgere il nuovo palazzo del cinema. Il problema è che è sorto solo il buco ed è rimasto tale solo il buco. Quindi forse possiamo più legarlo alla Biennale dell'Arte come opera nichilista, oscura, non lo so, un po' ermetica, ma non più alla mostra del cinema. Perché 10 anni fa si decide, presidente della Biennale era l'ex ministro legato alla Biennale Davide Croft, si decide di creare un nuovo palazzo del cinema, perché quello vecchio è obiettivamente vecchio, infatti c'è quello che volete. Viene bandito il concorso nel 2004, vince l'architetto francese Rudy Ricciotti, che sarà il cognome italo-francese. Comunque, l'operazione dovrebbe costare un centinaio di milioni, poco più di 100 milioni. Siccome però i soldi non ci sono, e già lì è interessante che tu bandisca un concorso con l'architetto quando ti mancano i soldi e tieni il vecchio palazzo, si pensa di mettere al nuovo palazzo del cinema il bollino delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Si dice, agganciamolo ai soldi che ci sono a disposizione per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. E quindi entra nella tipologia dei grandi eventi finanziati per i 150 anni dell'Unità d'Italia e partono 40 milioni di euro di soldi pubblici e viene affidato alla Protezione Civile. Insieme al bollino arriva anche il commissario. Ora, durante il suo governo del commissario, la gara per la realizzazione dell'opera viene aggiudicata ad un raggruppamento di imprese, la capofila della veneziana Sacaim, controllata da Rizzani Decker. Va bene, si posa la prima pietra nell'agosto del 2008, si inizia a scavare giustamente e per scavare faccio notare che si è distrutta una pineta che occupava l'area adiacente al vecchio, all'attuale Palazzo del Cinema, sono 104 pini e va bene anche così, e non vogliamo fare quelli, no, non si abbattono i pini, devi fare il nuovo Palazzo del Cinema, c'è del prestigio per Venezia. Peccato che durante gli scavi si scopra che c'è dell'amianto, allora parte l'opera di bonifica, il terreno contaminato per più di 3 metri di profondità e per l'estensione di un ettaro, cioè era tutta una grande sacca di amianto quella roba lì, viene imbustato in appositi sacchetti e poi trasferito sulla terraferma e poi spedito in Germania, perché i tedeschi lo accolgono a braccio aperto. I tedeschi, in base alla loro normativa, possono utilizzare quel materiale per il fondo stradale. Allora un bel po' di soldi già se ne vanno per la bonifica, niente paura, si studia un piano. Ok, al Lido c'è un ospedale considerato sovradimensionato per un'isola che ha 18.000 abitanti, verrà chiuso e venduto ai privati. Allora l'azienda sanitaria vende al comune per 30 milioni, il comune vende a sua volta un fondo immobiliare di proprietà di un gruppo privato, Est Capital. Il presidente, nonché principale azionista di questo fondo immobiliare, è Gianfranco Mossetto, ex assessore del comune di Venezia. Va bene? Va bene mica tanto, perché la cosa suscita polemiche e va tutto storto. L'ospedale viene chiuso, la struttura in balia di rom e di senza tetto, portano via ogni cosa trasportabile, i sanitari, i letti, gli armadi, smontano gli impianti, rubano il rame, cioè per ora sono solo riusciti a devastare l'ospedale del Lido. L'area intera piomba in un degrado che invito qualunque turista a andare a vedere. i soldi non si trovano, il progetto del nuovo Palazzo del Cinema viene di nuovo bloccato. La situazione a quel punto precipita, la finanza muove a East Capital contestazioni su una presunta elusione fiscale di 17 milioni di euro. A quel punto l'anno scorso il ministro dell'economia ha commissariato il gruppo. A mettere una pezza ci pensa ancora una volta lo Stato, cioè tutti noi. L'ospedale che era stato ceduto ai privati, ritorno di proprietà pubblica, pensate un po', l'abbiamo ceduto ai privati, fatto devastare dai Rom e da altri personaggini simpatici, adesso ce lo stiamo, era diventato il rifugio dei senza tetto, adesso ce lo stiamo ricomprando e praticamente è un cantiere a cielo aperto. A questo punto c'è chi sospetta che per risolvere l'intera faccenda del Palazzo del Cinema del Lido non ci sia altra strada che riempire il buco con altro cemento e quindi altri, dopo 40 milioni di euro, spenderemo altri soldi. Ci siamo riusciti a non avere il Palazzo Nuovo del Cinema, a spendere 40 milioni di euro, a far chiudere un ospedale che viene poi devastato dai Rom ed è senza tetto, e a ricomprarci questo ospedale da una società che nel frattempo è stata indagata per elusione fiscale per 17 milioni di euro. Ma dove lo trovate un altro paese così? La classifica della settimana. Oh, primo posto, ex equo, ricordo il numero 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ex equo perché? Perché io vi chiedo, insomma, ma che paese è, o meglio, qual è la giustizia di un paese che permette, da un lato, al presidente Mazzacurati, ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, quello che è accusato di avere corrotto praticamente mezza laguna, dai generali della Guardia di Finanza, i magistrati delle acque, passando per i ministri, i sottosegretari, i presidenti di regione, gli assessori, le fondazioni politiche, i sottosegretari, i finanzieri, mancava un gondoliere e un piccione di San Marco, li aveva fatti tutti i Mazzacurati. Comunque, questo lavoro viene stimato dai magistrati di corruzione, questo lavoro di corruzione, concussione, riciclaggio, finanziamento illecito, vale, secondo i magistrati, 25 milioni di euro di sovrafatturazione di costi in più e 40 milioni di euro sequestrati a oltre 100 indagati. Che, perché ne parliamo di nuovo? Perché nel frattempo Mazzacurati, se ne sono accorti adesso, si era dato... Allora, gli arresti domiciliari di Mazzacurati avvengono nel luglio del 2013 per l'inchiesta sul Mose, ok? Nel primo filone, poi arriva la botta che coinvolge anche Galan e gli altri nel 2014. Lui si dimette... si era dimesso il mese precedente da presidente del Consorzio Venezia Nuova, ma quando si era dimesso a giugno del 2013 aveva ottenuto dal consiglio direttivo, per la precisione il 28 giugno e poi il 20 dicembre 2013, quindi già a arresti domiciliari avvenuti, ha ottenuto di ricevere la somma complessiva di 7 milioni di euro come, diciamo, sostanzialmente buona uscita e in cambio di completa tacitazione di ogni pretesa e o richiesta su quello che è la cessazione di rapporti di lavoro, la liquidazione. Ma ascolta, ma che completa tacitazione di ogni pretesa e richiesta? Guardate che Mazzacurati non parla, sono gli inquirenti che vorrebbero che parlasse, non è lui che vuole parlare e devi dargli 7 milioni perché stia zitto. Oh, questi soldi li ha presi quasi tutti, nel senso che adesso si è accorto chi gestisce la società commissariata che mancava l'ultima tranche da dare a Mazzacurati. I tre amministratori straordinari nominati da autorità anticorruzione hanno trovato la sorpresa approvando il bilancio del 31 dicembre 2014. Perché l'hanno scoperto? Perché si sono accorti che mancava una tranche da 1.154.000 euro da dare a Mazzacurati. Di questi 7 milioni, questo ha... secondo l'accusa, corrotto, rubato, fatto lievitare un'opera che ricordavamo prima da 2 miliardi a 6 miliardi e 2, è accusato di aver messo in piedi un sistema, una cupola veneziana di corruzione, concussione, tangenti, riciclaggio e piglia 7 milioni di euro per la liquidazione del rapporto e 1 milione e 100 forse riescono a bloccarli adesso perché è l'ultima tranche che gli viene data. Nel frattempo Mazzacurati deve ridare alla società 317.000 euro di azioni della Tethys SPA ricevute il 27 settembre 2007, non le ha mai pagate queste azioni. doveva saldare questo importo 31 dicembre. Però lui, che attualmente continua a risiedere a San Diego, in California, dice di non essere nella possibilità di adempiere al pagamento. Ora, voi capite bene che uno che ha ricevuto quasi 7 milioni, 6 milioni di liquidazione non può adempiere al pagamento. Faccio notare che il MOSE ha una perdita di 28.000 società, 28 milioni e 700 mila euro. Perché un ex aequo? Perché un paese in cui questo avviene per mazzacurati, però ha il tempo per processare Dorel Bancila, è incensurato, è un per furto aggravato, e dice cosa avrà fatto sto qua, ha preso 22 pigne dai rami degli alberi del giardino comunale, praticamente in via Libero Leonardi. Sapete la cosa interessante? Dice, vabbè, già che la giustizia italiana possa far spendere soldi ai contribuenti per uno che ruba 22 pigne da un albero comunale, ti fa impazzire. Ma la cosa interessante è che lui rischia veramente grosso, perché ci sono due aggravanti. Una è il furto del frutto dell'albero, ma uno che ruba 22 pigne, ma voglio dire, ma è uno che sta messo male. Comunque, il furto del frutto dell'albero commesso in un luogo considerato uno spazio di pubblica utilità, come il parco comunale. La seconda aggravante è perché la procura ritiene che l'imputato abbia usato violenza sul pino staccando la pigna. A parte che bisognerebbe chiederlo al pino, a me ricorda quello del piccione. Ma voglio dire, ma come si fa a staccare una pigna senza usare violenza su un pino? Si accarezza, lo si distrae, gli si fa qualcosa, diciamo così, di erotico, così lui non è ben presente? Come si fa a staccare una pigna da un pino senza che la procura ti accusi di aver causato violenza al pino stesso? Questo voglio sapere, perché è un paese che tiene assieme mazzacurati con 7 milioni di euro e un rumeno, potrebbe essere un italiano, che rischia da 3 a 10 anni per aver causato violenza al pino staccando 22 pigne senza che al pino sia mai stato chiesto: hai ricevuto violenza? Sì. Te piaceva? Eri consenziente? Non si sa. Boh. Quanta violenza hai ricevuto? Ragazzi, è un paese bellissimo. L'applauso va a Mazzacurati e a Dorel Bancila, perché questo è un paese che premia Mazzacurati e giustamente indaga con le aggravanti Dorel Bancila. E vai, poi magari il pino si costituisce parte civile e allora cambia tutta la vicenda. Are you with me? Are you with me? Si accettano ipotesi, petizioni per il pino, per Dorel Bancila, magari Mazzacurati potrebbe aiutare Bancila, non lo so. Voglio capire come si fa a staccare una pigna da un pino senza essere accusati di usare violenza al pino stesso, e come mai nessuno si era accorto nel frattempo che Mazzacurati aveva beccato 7 milioni di euro di liquidazione dopo l'accusa di averne fatti 25 di corruzione, praticamente 1 milione di euro di liquidazione ogni 2 di corruzione. Può essere una nuova stima, una nuova ratio, un nuovo rapporto. Invece che il PE andremo a vedere il CB, corruzione buona uscita, non so, magari. Giovanni Delisi, fondatore di Green Rail, buonasera. Buonasera, buonasera Sebastiano. Se lei ha un'idea sul pino e come si fa a staccare una pigna da un pino senza violenza, ce lo dica. In realtà lei, che come ricordava è già stato ospite nostro di Giovanni Minoli quando uscì la notizia, l'abbiamo scelta perché la sua vicenda di startup, noi usiamo sempre un giovane imprenditore, giovane no, un nuovo imprenditore, anche se non è giovane, che si è messo in gioco in questi anni di crisi. Lei da dove è partito innanzitutto? Cosa faceva prima di avere questa idea? Io ho iniziato a lavorare nell'azienda che aveva mio padre, si occupava di costruzione e manutenzione di linee ferroviarie. Ho cominciato da operaio, ho fatto l'esperienza in Sicilia. Mm-hmm. Sì. Ho cominciato da operaio, ho fatto la mia esperienza in cantiere e poi nel 2012 ho avuto l'idea e quando ho capito che la mia idea era vincente ho messo in moto Green Rail. Allora, che idea ha avuto lei? Perché l'avevamo già raccontata, però raccontiamola tutta. A me è una cosa che piace tantissimo. Praticamente lei aveva l'azienda del papà dove lavorava come operaio, si occupava di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie della Sicilia, se ben ricordo, no? Lei ha avuto un'idea di utilizzare una nuova traversina ferroviaria costruita con che cosa? Plastica e gomma riciclata, gomma che viene ottenuta dalla frantumazione dei pneumatici fuori uso. Quindi lei prende gli pneumatici sì. Fuori uso, e che ne fa? Li trituriamo, dal pneumatico viene ricavato il polverino di gomma, il polverino viene miscelato con plastica riciclata ottenuta dalla raccolta differenziata e viene stampato per costituire la nostra traversa, la traversa Green Rail, che è una traversa che ha tutte le caratteristiche tecniche per sostituire sul mercato l'attuale standard del mercato, che sono le traverse in calcestruzzo. Allora, uno dice, già questa è una buona cosa, intanto è buono che uno abbia avuto l'idea e faccia l'impresa e poi usi materiale riciclato. C'è dell'altro, e lo scopriamo dopo il GR24, perché riuscite anche a produrre energia attraverso questo materiale. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavamo terminando con Giovanni Delisi, fondatore di Green Rail, quindi da operaio dell'azienda paterna che faceva manutenzione delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, si inventa una nuova traversina ferroviaria ecosostenibile perché viene prodotta con materiali riciclati e incorporando un modulo fotovoltaico trasforma anche la ferrovia in un campo fotovoltaico. Le ha sponsorizzato, cioè chi ha messo i soldi per il progetto? Banche, istituzioni, università, fondi privati, privati cittadini? Fino ad oggi ci siamo autofinanziati con i capitali da parte dei soci. Poi siamo stati i vincitori del premio Edison quest'anno, che ci ha dato un contributo di 100.000 euro, e dello SME Instrument siamo stati l'unico progetto siciliano e fra gli unici tre del sud Italia ad aver superato la fase 1 dello SME Instrument della Commissione Europea, che ci ha dato un forfettario di 50.000 euro e oggi stiamo proseguendo con contratti in via di definizione con futuri licenziatari della nostra tecnologia, quindi se tutto procede bene riusciremo a autofinanziarci. Quindi 100.000 euro dal premio Edison, tra l'altro noi lo presentammo a suo tempo con tutti i premiati, 40.000 euro dalla Commissione Europea e è il Politecnico di Milano che vi ha fatto da partner tecnologico, se ho capito bene, giusto? Il nostro partner tecnologico principale è il Politecnico di Milano, specificatamente il Dipartimento di Chimica e il Dipartimento di Meccanica, con cui stanno andando avanti tutti i test di prototipazione e con cui contiamo di terminare tutti i test per l'omologazione del prodotto entro dicembre 2015. Poi in partnership con l'Istituto Italiano di Tecnologia stiamo sviluppando la Green Rail Solar, che è una traversa, come hai ben detto poc'anzi, e tu, che integra un pannello fotovoltaico ottenuto sempre da plastica riciclata e che riesce a trasformare un solo chilometro di linea ferroviaria in un campo con una produttività di 150 kWh, quindi energia per 50 abitazioni. Ha intenzioni, do sempre lei, comunque ha intenzione di assumere, avete assunto, quanto siete dipendenti o è ancora tutto in fase di definizione? Abbiamo assunto da un paio di mesi i primi due dipendenti, in più abbiamo un collaboratore in stage, a partire da fine anno comunque amplieremo l'organico. E fino a quanti? Non lo sappiamo perché dipende dalla nostra crescita. Dipende dalla crescita, dipende dai contratti. Ma avete accordi di fornitura in discussione? Stiamo discutendo per accordi di fornitura in paesi in via di sviluppo, paesi euroasiatici e paesi medio orientali. Consideri che la prima fornitura per cui stiamo dialogando parliamo di 4 milioni di traverse, quindi una bella... In Italia no? In Italia sì, assolutamente, fra qualche anno. I paesi in via di sviluppo sono quelli che per noi sono più facili da penetrare rispetto ai paesi già sviluppati e dove si costruisce ben poco e l'apertura all'innovazione non è così semplice rispetto invece ai paesi che hanno necessità di tecnologie e soprattutto di prodotti ecosostenibili. Allora, lo diciamo sempre, a me non me ne frega nulla se sembra retorico, prendete esempio da tutti i giovani e anche non giovani, da tutti gli imprenditori, i neoimprenditori che invitiamo ogni venerdì e contrapponiamo agli sprechi, alle tangenti, ai costi della pubblica amministrazione, lo dico soprattutto ai ragazzi, ma non solo, non vi sfiduciate con la nostra poco invidiabile classifica, prendete esempio da, appunto, dai giovani imprenditori, da chi lancia un'iniziativa e non dagli emuli di Mazzacurati. Grazie anche a Giovanni Delisi, fondatore appunto di Green Rail. La borsa, prima di trasferirci anche come studio, nel senso che abbiamo uno studio a Santa Margherita Ligure come ogni anno, la borsa, dicevo, meno 2,10 Milano, Parigi meno 1,33, Francoforte meno 1,26, Londra meno 0,80, l'America meno 0,20 in questo momento sul Dow Jones, euro a quota 1,11. Cos'è successo a Milano? Beh, pesa anche e soprattutto il Monte dei Paschi e una debolezza generica del mercato bancario. Il Monte dei Paschi ha perso sul diritti il 9%, sull'azione il 3,31%, male, dicevo, anche UbiBanca meno 3,50%, Mediolanum meno 3,80%, Mediobanca meno 3,5%, Pop Milano meno 3,30%, Intesa San Paolo meno 2,60%, Popolare Emilia Romagna e Banco Popolare perdono il 2,20%. Un po' in rialzo oggi di spread e rendimenti, poi per quello che riguarda il Monte dei Paschi, lunedì ci sarà la prima scadenza dell'operazione di aumento di capitale ed è l'ultimo giorno lunedì per negoziare i diritti. Il titolo tra l'altro è stato anche sospeso e poi è tornato sugli scambi, abbiamo già parlato a lungo di questo aumento, secondo aumento di capitale particolarmente diluitivo, particolarmente penalizzante per gli azionisti. Mediaset si attende la presentazione di Premium di martedì prossimo, il titolo va male da alcuni giorni, oggi perde il 4,47%. Faccio notare che anche la Cassa di risparmio di Genova va malissimo, meno 11%, anche qui siamo sotto aumento di capitale da 850 milioni. Tra l'altro il prezzo delle nuove azioni ha uno sconto del 35%, insomma il mercato non dico che non gli piaccia, ma almeno ne prende atto. Riprende quota invece oggi Saipem, l'unico titolo positivo, mezzo punto percentuale. Ieri ricordiamo però un calo a doppia cifra. La società ha precisato che la ricapitalizzazione è una delle opzioni, non l'unica, per risolvere il problema dell'indebitamento. Non c'è altro di positivo oltre a Saipem, modestamente positiva. Faccio notare che al di là dei bancari, oggi male anche Fiat meno 3,33, Autogrill meno 3%, Yux meno 3, Telecom meno 2,70, Moncler meno 2,40, Exor, la controllante di Fiat, meno 2,40% anch'essa, Campari e Banco Popolare meno 2,30%, già l'avevamo detto, il Banco Popolare è nel Green Power e Generali meno 2%. Miglior titolo in assoluto, Modelleria Brambilla, più 4,36, TAS più 4,30, Monriff più 4%. Peggior titolo in assoluto, Edes, meno 16%. C'è l'aumento di capitale da lunedì e quindi è l'ultimo passaggio prima del processo di ristrutturazione per Edes. E poi primi sui motori, meno 10,70, Fedon meno 9,30, Bio2 meno 8,70%. Anche Cassa del risparmio di Genova è stata sospesa dalla borsa, non solo Generali, i due titoli sotto aumento di capitale. Adesso il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Minuti. Allora ci colleghiamo con gli studi di Radio 24 a Santa Margherita Ligure, dove si è tenuta la prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. Il presidente Marco Gai, buonasera. Buonasera. E buonasera anche al nostro Simone Spezia, che la sta seguendo, sta facendo i collegamenti, le dirette. Ciao Simone. Allora, buonasera Sebastiano. Presidente Gai, voi avete detto da un lato attenzione ai politici, e sfruttateci per le idee, non per le tasse, non scendiamo in campo ma vogliamo partecipare. Cos'è una risposta, diciamo, a tutto quello che è l'atteggiamento del Premier Renzi su quello che ha chiamato sostanzialmente il ruolo dei corpi intermedi, la disintermediazione dei corpi intermedi? Io ritengo che più che una risposta e una dichiarazione di intenti chiari che come imprenditori, come giovani imprenditori abbiamo, nel senso che più chiaro di così ci sono delle cose da fare, abbiamo le idee, le competenze, le capacità, oltre che le aziende, i capitali per poi poterlo fare, facciamolo insieme e l'obiettivo è comune, noi facciamo la nostra parte, se no serviamo a pagare le tasse e poco più, ma secondo me c'è tanto capitale non solo economico ma anche civico, anche sociale da mettere in campo e oggi ci interessa farlo perché se non approfittiamo di questo momento dove si inizia a vedere una ripresa, secondo me sprechiamo un'occasione pazzesca. Allora, nel frattempo, visto che siamo in diretta, vi leggo un flash d'agenzia che riguarda il Milan, ma la trattativa con B, praticamente Berlusconi ha trovato un'intesa preliminare con B per cedergli una quota del Milan poco inferiore al 50% per una cifra non lontana da 500 milioni di euro, quindi dal flash d'agenzia appena battuto la trattativa si è conclusa e si è conclusa anche positivamente per il Milan, mentre la Consob, ma questa è un'altra notizia, ha detto che accenderà un faro per le anomalie di prezzo in borsa registrate sul titolo Cassa del Risparmio di Genova, appunto oggetto di aumento di capitale. Torniamo invece al convegno dei giovani imprenditori. Presidente Gai, voi avete invitato, era su tutti i giornali, Matteo Salvini. In precedenza, negli anni scorsi, avete detto che non volevate più i politici a venire a fare passerella, a raccogliere consenso e fare solo promesse. Come mai la scelta di Salvini? E poi vediamo anche con Spezia come lo ha accolto la sala. Presidente Gai. Allora, abbiamo invitato Salvini, abbiamo invitato Meloni, abbiamo invitato i sindacati, Orlando, abbiamo invitato la politica. Ormai erano 5 anni che la politica non partecipava più ai nostri lavori perché non siamo da passerella. Devo dire che noi abbiamo detto, confrontiamoci su temi specifici con obiettivi specifici, così è stato, perché il confronto deve essere costruttivo, il dialogo ci deve essere, a noi piace dialogare, noi vogliamo questo rapporto con la classe dirigente politica e quindi ci siamo posti in questa condizione e abbiamo invitato in realtà tutte o quasi tutte le forze politiche proprio perché la costruzione del nostro futuro da imprese, da imprenditori passa per una convergenza di obiettivi. Politica industriale devono aiutarci loro a compierla seguendo quelle che possono essere le nostre intenzioni di impresa. Ecco, e veniamo a questo perché secondo me c'è stata un po' di confusione in questi mesi tra il tema della rappresentanza, cioè chi rappresenta che cosa, cosa rappresentano i sindacati, cosa rappresenta Confindustria, cosa rappresenta Rete Imprese per l'Italia, la Confcommercio, e la rappresentazione. Non è un gioco di parole, perché tu puoi anche criticare la rappresentanza, ma poi devi avere qualcuno che ti fornisca una rappresentazione del paese. A nostro avviso, nelle ultime regionali, forse il governo Renzi ha peccato anche un po' di qualcuno che gli raccontasse qual è il paese. Allora, la rappresentanza, al di là di qualunque critica uno possa fare, serve delle volte anche per darti una rappresentazione delle esigenze dei piccoli industriali, delle esigenze del mondo del commercio, delle esigenze sindacali. Cioè, la rappresentanza non è solo fine a se stessa, ti dà anche la fotografia di un paese, se la sai ben utilizzare. È questo il ruolo che voi vi immaginate, cioè meno rappresentanza in senso solo istituzionale e più rappresentazione di un paese? Ma noi siamo parte del paese, se come noi abbiamo sostenuto e sosteniamo bisogna parlare di policy, quindi di metodo, di modelli, i corpi sociali, lo stato sociale è necessario e l'associazione delle imprese Confindustria fa rappresentanza generale e quindi riesce a dare gli strumenti poi al decisore pubblico, il governo, lo stato, i politici che devono sintetizzare in interessi che poi siano generali per il paese. È necessario, bisogna confrontarsi, bisogna parlarsi e bisogna non concertare ma avere un tipo di dialogo moderno che vada sui risultati e vada sugli obiettivi. Allora, poi torno da lei, Presidente Gai. Simone Spezia, come è stato accolto Salvini? Adesso è inutile girarci attorno del Ministro Orlando, abbiamo già ascoltato anche le dichiarazioni in merito a Mafia Capitale. Sì. Ahimè, l'accoglienza, le parole e l'accoglienza di Salvini. Allora, il primo elemento è come si è presentato Matteo Salvini, con un atteggiamento sicuramente più moderato, anche solo esteticamente, insomma, era camicia e giacca e non felpa al convegno, e poi anche nelle dichiarazioni, per darti un'idea, Sebastiano, una delle frasi è stata: i Rom sono l'ultima delle ultime emergenze di questo paese. Se consideri che praticamente abbiamo montato un pezzo intero della campagna elettorale su questo, è piuttosto significativo. Quindi anche la volontà, come dire, di venire incontro alla platea. Platea che lo ha accolto, io direi, mettiamola così, in... Mettiamola da un lato negativo, non è scoccata la scintilla. C'è qualcuno che nelle domande della platea gli ha detto: lei è un populista e non tiene conto di quelle che sono le esigenze del paese. Salvini ha incassato il colpo, questo è da dire, ha detto sono orgoglioso dell'espressione populista e ha comunque detto cerchiamo di fare squadra, di lavorare insieme. Forse possiamo ascoltare un passaggio di quello che ha detto Salvini al microfono della nostra Anna Marino. Io ritengo che questa Europa sia un danno e vada ribaltata, ritengo che la tassazione in Italia sia da strozzinaggio, ritengo che le sanzioni contro la Russia siano un'idiozia e penso che col 15% di tasse l'Italia potrebbe ripartire. Alla fine il confronto sulla flat tax come è andato secondo lei con i giovani industriali? Chiedetelo a loro, io porto numeri, statistiche, documenti, paesi che crescono e paesi che non crescono come l'Italia. Quando un paese tassa per il 65% non neanche il reddito ma il fatturato, poi magari neanche incassato, è un paese morto. Quindi spero che si faccia squadra, poi ognuno si tiene la sua idea politica diversa, non mi interessa sapere chi hanno votato le persone che sono qua dentro, mi interessa ragionare su temi concreti. Ad esempio io da Confindustria mi sarei aspettato e mi aspetterei che sul tema sanzioni contro la Russia ci fossero parole forti, precise, decise, coraggiose, non qualche mormorio, qualche mugugno, perché stiamo perdendo miliardi di euro di fatturato e migliaia di posti di lavoro. Quindi è giusto che l'impresa chieda alla politica e fa la sua parte, però anche l'impresa dovrebbe dare una mano alla politica e fare la sua parte. Simone Spezia, ma immagino che il segretario della Lega avrà toccato i temi dell'euro, dell'uscita dall'euro, degli euroscettici, degli eurofelici, degli euroinfelici, no? Certo, naturalmente ha parlato, ha usato un'espressione che è questa, eurobamba, possiamo sentire. Eurobamba. Okay. Un giornalista all'ingresso mi ha chiesto come pensa di convincere la platea, non sono qua a convincere nessuno a regalare 80 euro a vendere pentole, sono qua a proporre qualcosa che vorrei per i miei due figli. Io sentivo l'ambasciatore e sentivo due esempi, due modelli, due Ferrari. Purtroppo l'Italia non è solo Ferrari, non è solo Sassicaia, è anche vino da tavola, è anche l'utilitaria. Io penso che i veri nemici dell'Europa siano gli eurobamba, quelli che va bene così, chiunque alza il dito è un gufo, gli eurofelici a prescindere. Si può discutere la moneta? Sì, penso che si possa discutere la moneta. Sì. Si può discutere Basilea 2 e Basilea 3? Allora, no, vedo che qualcuno mi scrive ormai siete Radio Padania 24, però dovete decidervi perché prima eravamo Radio Renzi 24, adesso Radio Padania 24, alcuni ci scrivono che siamo grillini. Poi evidentemente forse siamo ecumenici. Presidente Gai, non è scattato il feeling, però Salvini diceva vorremmo da voi anche posizioni più... adesso, forzo l'analisi, più dure su certi temi, lasciamo stare come la pensate sull'euro, su, chi vi parla sapete che pensa che sia una follia totale uscire dall'euro, altra cosa è riformare questa Europa, però dice un po' più di coraggio, un po' più di forza su questo. Ma noi forza, coraggio ce la mettiamo e oggi secondo me è venuto anche fuori una bella forza e voglia di riscatto. È chiaro che se uno si ferma allo stereotipo finisce lì, il confronto serve proprio a uscire dallo stereotipo e noi la forza ce la mettiamo, proposte serie e voglia di costruirle insieme c'è. Ci deve essere la voglia di ascoltare, ma non di ascoltare per un tempo limitato, ma di ascoltare e poi scaricare a terra, no? Come si dice solitamente. Quindi coraggio ce n'è tanto, basta avere voglia di ascoltarlo. Simone Spezia, poi i lavori procedono anche domani e il tema, non l'ho ricordato e quindi lo ricordo subito, è un tema alto come spesso avviene per i giovani industriali di Confindustria quando affrontano i temi di Santa Margherita Ligure, ci interessa visione di strategie politiche. Simone. Sì, i lavori appunto proseguono domani, tra l'altro domani ci sarà il ministro Maria Elena Boschi e ci sarà il presidente di Confindustria Giorgio Squinto. È il secondo anno che viene la Boschi, anche l'anno scorso, Gai, sì. No? Bene. Sì, è il secondo anno, sì. Prego Simone. Eccoci qua, come dicevo, e poi ci saranno di nuovo l'intervento conclusivo di Marco Gai e del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, e ovviamente vi aggiorneremo nei giornali radio. Sì, faccio notare anche appunto che tra i vari interventi, non possiamo farli ascoltare tutti, c'è stato anche quello di Landini, leader della FIOM Landini, che ha detto il vero problema di quello, che è quello di cui non si discute, cioè quale modello produttivo serve per i prossimi anni, del ministro Orlando abbiamo già detto, ha definito una brutta pagina, e come poteva definirla, la vicenda mafia capitale, una tegola per la politica. Sì, Orlando, è che il tetto ne ha tante di queste tegole, bisogna reagire con interventi normativi e politicamente mirati, sì, e anche smetterla di rubare, aggiungiamo noi. Grazie a Marco Gai, il presidente dei giovani industriali di Confindustria, e a Simone Spezia, ambedue in collegamento dallo studio della 24 a Santa Margherita Ligure. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. L'augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.